Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. La sua bellezza non sa fingere, la sua bellezza è sesso in polvere. Chi pensa che le può resistere, prima o poi si ricrederà e come tutti impazzirà. Buongiorno cari amici, buon sabato. Oggi parto così, dicendovi che saper vivere bene è un'arte e l'arte, attenzione, aiuta a vivere bene e più a lungo. Non lo dico io, ma lo suggerisce uno studio appena pubblicato che ho pensato proprio di proporvi oggi, così che abbiate il tempo di organizzare qualcosa di bello per voi per questo weekend. Ma andiamo per ordine. Intanto saluto il professor Piero Barbanti, primario neurologo al San Raffaele Pisana di Roma, che è qui in studio con me e questo è già bellissimo. Buongiorno. Buongiorno. Partiamo dallo studio, professore, che è molto interessante perché io l'ho sintetizzato in un gioco di parole, ma... Questo è uno studio molto importante perché è uno studio inglese in cui viene seguita ormai quasi da 20 anni una coorte di soggetti che invecchia e si vedono quali sono i fattori che fanno invecchiare meglio, che fanno invecchiare peggio e quelli che inducono a morire prima. Ebbene, quello che hanno notato è che il 31% dei soggetti che abbiano l'abitudine di frequentare i musei, di seguire quindi l'arte in qualche maniera, ha una maggiore probabilità di sopravvivenza dopo 14 anni rispetto a chi non lo faccia. Ma allora viene da chiedersi perché l'arte fa bene? A quale parte del corpo l'arte fa bene? Noi non possiamo dire se non che fa bene al cervello, che è il primo a riceverla. E poi... forse pochi sanno che c'è ormai una branca della neurologia che sta studiando questa il grande fascino che esercita il bello, e l'arte è comunque una così una espressione del bello, si chiama neuroestetica, che spiega il terremoto che capita dentro di noi quando noi guardiamo qualcosa che possa essere l'arte, ma anche un bel tramonto, un paesaggio montano, un paesaggio marino, una foresta pluviale lussureggiante. Bene, il cervello entra in fibrillazione ed è una onda sismica che parte dalla parte posteriore del cervello, dalla nostra nuca, lì sotto c'è la corteccia visiva, e quella come prima cosa riceve l'immagine, ma poi questa ondata sismica va da dietro in avanti e incomincia a discriminare i colori, le sfumature, ma va ancora più avanti, va nella zona parietale, vicino al nostro orecchio, e lì incomincia a decodificare le forme e a capire la forma a quale significato è associata, ma continua ad andare avanti, va nel lobo temporale, che è quello dove ci sono i nostri ricordi, e quindi magari una cosa che vediamo, un viso di un pittore, ci ricorda una nostra lontana parente, una nostra amata, una persona importante della vita. Ma non è ancora finita, questa onda tellurica va ancora più avanti, sopra i nostri occhi, si chiama corteccia orbito frontale, e lì diventa emozione profonda e si tuffa nella profondità del cervello e va in zone impronunciabili, si chiamano insula, amigdala, che trasformano l'arte, il bello, in vibrazione. Tutto questo ci scuote e ci fa vivere più a lungo. Insomma, professor Barbanti, la bellezza ci salverà, ci curerà, ci aiuterà a vivere meglio, ma bisogna anche saper allenare i nostri occhi a cogliere il bello. Ho invitato qui in studio con me oggi il collega Stefano Biolchini, giornalista della Domenica, del Sole 24 Ore, noto ai più come Il Domenicale. Stefano, ciao, grazie. Buongiorno, buongiorno a voi. Ti ho portato in questa puntata dedicata ai benefici della bellezza, ma bisogna anche allenare. Noi siamo circondati da bellezza, spesso non la vediamo, siamo troppo indaffarati, ma dobbiamo anche educarci a cogliere il bello. Ah, di sicuro. La bellezza è niente di più che un'abitudine, un'educazione, un alzarsi la mattina, aprire gli occhi e cercare di guardare a qualcosa di bello. Visto anche perché la cronaca non ci aiuta, vediamo brutture dovunque e forse davvero solo la bellezza ci salverà. Ho capito perché avete accettato di venire qui in studio tutte e due. Adesso non voglio dire, ma io ho detto venite, certo, certo, state praticando. Stefano, A parte questa battuta. Ma io sono convinto che la bellezza sia salvifica, però sentire qui raccontare dal professore che ne conferma anche la valenza scientifica, come dire, mi rincuora e mi dà davvero quelle certezze che non avrei mai avuto. Però vi voglio invitare con una frase, con una citazione. Ho scelto Oscar Wilde. Il guardare una cosa è ben diverso dal vederla. Non si vede una cosa finché non se ne vede la bellezza. Ecco, qua c'è tutto. Un esteta come Oscar Wilde ha spiegato la bellezza in pochissimi attimi e pochissime parole, perché la bellezza bisogna saperla guardare, che è un po' più difficile. Professor Barbanti, un commento a Oscar Wilde, che cosa ci insegna? Oscar Wilde la sapeva lunga e il cervello ha alcune regole, ci sono alcuni canoni che sono in noi, quasi innati. Per esempio, il nostro cervello ama più le curve che gli spigoli e ama più le simmetrie che le asimmetrie. Poi un'altra cosa che sanno benissimo i costruttori d'automobili, ma anche chi faccia computer o telefonini, ama la novità, il restyling, un piccolo ritocco modifica completamente il nostro approccio. Pensiamo a macchine che cambiano solo il fanale posteriore e non riesci più a vedere la vecchia. Ma un elemento che affascina il cervello del bello è un richiamo alla familiarità, quindi qualcosa che peschi nel nostro ricordo. Pensiamo quanto c'è dietro questo aspetto che ormai impregna il marketing quando ci deve sedurre con il bello. Proust e la nostalgia, come dire, qua si delizierebbero. Io voglio però dire che nella mia esperienza ho conosciuto la bellezza quando bambino entrai per la prima volta nella Cappella Sistina. Guardai in alto la Cappella Sistina e rimasi, come dire, scioccato. Stendhal l'aveva fatto ben prima e aveva spiegato molte cose, ma ho capito che cos'era la bellezza non guardando alla Cappella Sistina e guardando alle emozioni che io provavo, ma guardandomi intorno alle persone che erano intorno a me. Bene, la sensazione era unica e avvolgeva un po' tutti, era avvolgente. Allora ho capito che la bellezza sa impregnare davvero tutti. Ora il professore ce la spiega in maniera scientifica e, come dire, più di così. Ma vi voglio dare un altro mi spunto. Piace questo mini corso per la bellezza, per imparare a vedere la bellezza. Allora, la bellezza è arrivata in Occidente, come dire, con un'idea precisa che è quella dei greci, e quindi dai greci non possiamo prescindere, ma loro la bellezza la descrivevano in maniera più specifica ancora: kalos kai agathos. Bene, il bello doveva sempre essere unito al buono. Non dalle ricchezze ma dalle virtù nasce la bellezza, Socrate. E anche qui, come dire, ampi spazi alla spiegazione del professore, che ci spiegherà sicuramente anche il perché. Allora restiamo qua perché il professor Barbanti resta con noi, ma noi dobbiamo fare una pausa. Anche questo è bello, l'attesa, la bellezza dell'attesa. Cogliete l'attimo, a tra poco. Obiettivo salute weekend. Sto precipitando, amore mio, come la pioggia sul tuo viso, come il cielo quando crolla all'improvviso. Se la tua bellezza belli belli siamo tornati e stiamo parlando proprio di bellezza in questa puntata di Obiettivo Salute Weekend. Perché? Perché la bellezza ci aiuta a vivere bene e ci allunga anche la vita. Ne stiamo parlando col professor Piero Barbanti, primario neurologo al San Raffaele Pisana di Roma, e con Stefano Biolchini, collega, giornalista della Domenica del Sole 24 Ore, il domenicale come lo chiamiamo noi, autore tra l'altro di un romanzo bellissimo, Virginia nel cassetto, dove ci sono delle descrizioni della bellezza della natura della Sardegna. Quindi la bellezza bisogna saperla guardare, ma anche potrebbe essere un esercizio provare a raccontarla. Spesso non ci vengono le parole giuste, ma anche questo potrebbe essere un allenamento. Professor Barbanti, torniamo a lei, perché Stefano Biolchini le ha lanciato la palla. E andiamo nell'antica Grecia. E quando bello i greci parlavano di Calo Gagatia, gli eroi tutti buoni e belli, dicevano una cosa che ha un fondamento fisiologico, perché quella parte del cervello che è parcheggiata sopra i nostri occhi, corteccia orbito frontale, è la stessa parte che si attiva quando noi vediamo qualcosa di buono o quando vediamo qualcosa di bello. E la letteratura scientifica dimostra che i candidati politici con aspetto, diciamo, estetico migliore hanno più probabilità di essere eletti, imputati avvenenti hanno meno possibilità di essere condannati e i belli guadagnano in media il 12% in più. Attenzione, di arte, di bellezza si può addirittura soffrire, lo diceva Stendhal e lo ha descritto una psichiatra fiorentina, la dottoressa Magherini, perché quando questo succedeva a chi visitava Firenze, la Basilica di Santa Croce fu in realtà il primo episodio, perché quando compare questo terremoto autentico che da dietro in avanti pervade il nostro cervello e poi come un sub si immerge nella profondità, da dentro, se abbiamo qualche tensione emozionale, perché il nostro carattere, perché il nostro periodo, si scontrano questi due treni, uno che entra, l'altro che esce, e il paziente sta male, può avere attacchi di panico per la bellezza, addirittura manifestazioni psicotiche. Forse qualcuno ricorderà quello che colpì la Pietà di Michelangelo, Laszlo Toth, negli anni 70, portando via un pezzo di naso e un braccio. Quindi di troppa arte, di troppo bello, riusciamo addirittura a soffrire, tanto ci coinvolge, esattamente come l'amore. Bello da star male, Stefano. Bello da star male, ma la bellezza che può essere anche salvifica in un altro senso. E allora una citazione di Anna Frank: pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice. Bene, direi che più di così. Grazie a Stefano Biolchini che oggi è stato con noi e ci ha accompagnato in questa sorta di mini corso per la bellezza. Ricordo il titolo del suo libro, Virginia nel cassetto, descrizioni bellissime di una terra magnifica. Grazie Stefano. Gira e rigira la testa, mi gira la testa d'amore per te. Presa per i capelli e una lampada e dondola e ti fa luce di sé. Professor Barbanti, verrebbe da organizzare allora un saltino al museo o magari di accompagnare la famiglia per una gita fuori porta e godersi uno spettacolo della natura? Tanti progetti, tanti programmi, spesso li concentriamo al weekend, ma proprio nel weekend a volte siamo bloccati a casa per un forte mal di testa. Guardiamo quindi l'altro lato della medaglia, perché l'intenzione c'è, ma a volte il cervello ci impedisce di realizzare quello che avremo nel cuore. Verrebbe da tirar fuori un vecchio scioglilingua: e chi troppo in alto sal cade sovente, precipitevolissimevolmente. Perché viene il mal di testa nel fine settimana ai soggetti predisposti? Sì, io avrei una risposta, inizia per S però, io parlo tanto. Ecco, io non la pronuncio bene, quindi no, ma lei perché ha una la tensione emotiva, scientifica. La tensione emotiva della settimana è salita talmente tanto nei soggetti emicranici, che sono come le moto, vanno a 12.000 giri, non sono motori diesel, che il fine settimana staccano l'interruttore e il motore si spegne e quindi parte l'attacco. L'attacco emicranico parte in staccata, cioè quando io levo il gas, quando io esco al casello, ebbene in quel momento, il momento in cui io mollo, parte l'attacco. E per lungo tempo si è pensato, ma no, è un nevrotico, una nevrotica, non va d'accordo con la moglie, alla bella. Non è vero niente, è semplicemente il cervello emicranico che non gradisce questo sbalzo da un livello di grande attività al relax meritato del fine settimana. Cervello emicranico, quindi tipico di chi soffre di emicrania, che è una forma di mal di testa. Noi quando diciamo mal di testa ci riferiamo al dolore che avvertiamo, senza fare magari tante distinzioni. Invece l'emicrania si presenta in un modo particolare, interessa una zona specifica del cervello e si presenta con un dolore che è dei sintomi correlati ben riconoscibili. Professore, si presenta intanto di buon mattino, ecco, tra le 5:30 e le 6. bussa alla porta e incomincia ad entrare. E comincia con un dolore che di solito prende una metà della testa, specialmente intorno all'occhio. Uno dice, alcuni pazienti dicono mi fa male l'occhio, o la fronte, qualche volta il naso, insomma anche la faccia. E poi è un dolore che sale e che spesso non va via con un analgesico banale. Ma poi riconosciamo che è un'emicrania perché ha degli altri sintomi. Il paziente comincia a sentirsi strano, con lo stomaco pieno, o meno fame, sbadiglia, fastidio per le luci, per i rumori e poi, buoni buoni, la mamma oggi ha il mal di testa o papà ha il mal di testa, non fate rumore e rimane chiuso al buio perché tutti i sensi diventano amplificati. Pensa che c'è anche una forma chiamata aptofobia, cioè il fastidio ad essere toccati, come avere i nervi, la parte sensoriale del nostro corpo, a fior di pelle. Professore, questo dolore che interessa la zona intorno all'occhio, un po' il naso, dà la giustificazione di legare il dolore ad altre cause. Ad esempio si dice il mal di testa è un problema di sinusite, oppure mi è venuto il mal di testa di mattino presto, sarà colpa del cuscino, la famosa cervicale. Noi di solito le bufale le smascheriamo sempre, ma in modo particolare alla domenica, ma facciamo un'anticipazione, bufale che ruotano intorno al mal di testa, così le smascheriamo tutte e arriviamo anche a delle novità, perché ci sono delle novità molto interessanti. Le ha già nominate due: il collo non dà mai mal di testa, i vecchi hanno molta artrosi e non hanno più mal di testa, quindi tratto col pennarello, cancellato. La sinusite, si è mai visto una sinusite senza scolo dal naso? Come fa uno ad avere una sinusite solo per un dolore sulla fronte? Anche lì cancelliamo. La sinusite non causa mal di testa così come noi la immaginiamo. E poi la digestione, le intolleranze alimentari, queste sono ultra bufale. Piuttosto chiediamo se la mamma o il papà o i fratelli o i figli hanno mal di testa. Ecco la causa, la genetica. L'emicrania è una base genetica. Dopo le bufale passiamo in rassegna a quelli che sono gli errori che sovente commette la persona che ha mal di testa e che magari la gestisce da solo, la trascura. Due errori. Faccio diagnosi da solo e incominciano a fare 1000 esami, radiografie, risonanze che non servono a niente, anzi le sviano, come uno che va dal meccanico perché non si chiude bene una portiera e il meccanico gli cambia le spazzole dei tergi cristalli. Non era quello il suo problema. Questo succede purtroppo. Il secondo aspetto, mi faccio giustizia da solo e quindi incomincio a guardare su internet pozioni miracolose, mi faccio sistemare il collo, oppure vado in farmacia, tanto sono prodotti da banco. Prodotto da banco vuol dire che è semplice se lo prendi alcune volte, ma se lo prendi tutte le volte diventa un farmaco importante e quindi anche questo è sbagliato. Professor Barbanti, chiudiamo con le novità. Ci sono delle novità interessanti, direi novità nella novità. Sì, possiamo dire che da oggi l'emicrania si può curare in senso preventivo. Da oggi, o diciamo forse domani, perché aspettiamo che vengano resi rimborsabili, ci sono degli anticorpi intelligenti che entrano nel nostro organismo, si somministrano una volta al mese e vanno a bloccare una sostanza che è responsabile dell'attacco nel 70% perlomeno dei soggetti. È un vaccino? No. È per tutti? No. No. Ma è una straordinaria arma quando non funzionino le cure normali o quando non siano tollerate. Quindi chi ci ascolta potrà pensare che per sé o per i propri figli il futuro sarà sicuramente più roseo. Professor Barbanti, parliamo di una terapia che per la prima volta va ad agire su una delle cause dell'emicrania. Fino ad ora l'emicrania veniva curata con dei farmaci presi in prestito, mi passi il termine, da altre malattie. Sì, l'emicrania era come quel bambino che diceva i vestiti dai cuginetto più grande. Bravo. Stanno spesso bene, ma non è esattamente la stessa corporatura. Cosa vuol dire? Che le cure disponibili fino adesso avevano anche degli eventi avversi e non sempre potevano essere protratte per tanto tempo. Questa è la prima cura fatta su misura, cura preventiva, e quindi ha una eccellente efficacia unita a una tollerabilità che noi non conoscevamo fino adesso. D'altra parte la toppa non può mai essere peggiore del buco e qualche volta con i vecchi farmaci gli eventi avversi equivalevano il beneficio del farmaco e questo il paziente non lo vuole. Professor Barbanti, questo non significa che i vecchi farmaci non siano più efficaci. Ma per carità, i vecchi farmaci sono efficaci e dovranno essere usati, ma laddove non funzionino o laddove il beneficio è coperto da tanti eventi avversi, avremo nel prossimo futuro, noi speriamo nei prossimi mesi già in rimborsabilità, farmaci straordinari davvero testati su migliaia di pazienti che stanno cambiando il destino di diversi pazienti emicranici. Grazie al professore, a domani alla tavola della bufala in tavola. Buona giornata.